Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Ieri è stata una giornata in cui da fronti diversi sono arrivate molte indicazioni dal punto di vista della situazione finanziaria delle famiglie italiane e del cambiamento della propensione al risparmio e all'investimento. Indicazioni che emergono da rilevazioni fatte in un contesto economico che conoscete bene, che si è deteriorato notevolmente quest'anno, modificando a volte anche in modo radicale le condizioni finanziarie e di conseguenza le scelte di risparmio. Nel nostro paese c'è stato lo studio di Banca Italia sulla ricchezza delle famiglie, ma c'è stato anche il rapporto sul risparmio e sui risparmiatori in Italia, elaborato come ogni anno dal centro BNL Einaudi. Nel 2008 quasi 7 italiani su 10 non sono riusciti a mettere soldi da parte, 4 su 10 hanno incontrato difficoltà a saldare le rate dei propri debiti. Il rapporto indica anche quel fenomeno che è piuttosto evidente da mesi: i risparmiatori cercano forme di investimento più sicure, anche se meno remunerative, a trovarle adesso comunque forme di investimento remunerative. E in tutto questo, ieri abbiamo avuto anche la notizia, che trovate stamattina su tutti i giornali, che nel filone milanese del processo per il crack della Parmalat, che si è consumato esattamente 5 anni fa, è arrivata una condanna a 10 anni per Calisto Tanzi e nessun provvedimento invece per le banche ritenute coinvolte nella bancarotta del gruppo di Collecchio. E anche questo abbiamo ritenuto fosse uno spunto interessante per tornare a parlare della questione fiducia legata ai nostri investimenti, temi che affronteremo con Stelvio Bo, consulente finanziario indipendente, fondatore di Bono Plus Family Office, con il professor Claudio Bosio, vicepresidente di GFK Eurisco e direttore del Dipartimento di tematiche sociali e politiche. La voglio tradurre questa carica per renderla più comprensibile ai nostri ascoltatori, poi magari il professor Bosio ci aiuterà. Ma prima di tutto voglio partire e ringrazio molto di essere con noi con il professor Carlo Federico Grosso, legale rappresentante del più folto gruppo di obbligazionisti Parmalat, rimasti a questo punto, da quello che è possibile percepire, davvero con il cerino in mano, perché non essendo arrivata, almeno in questo primo troncone dell'inchiesta, nessuna condanna per le banche, spengono così delle speranze di indennizzo per queste 32.000 persone. Professor Grosso, buongiorno. Buongiorno. Qual è la sua sensazione, appunto? Lei ha diramato ieri, è stato ovviamente coinvolto anche per il commento rispetto a quello che è stato deciso a Milano da molte agenzie, e lei ha detto, insomma, ovviamente una condanna anche per Bank of America in questo caso sarebbe stata preferibile, perché ci avrebbe assicurato un titolo da far valere ai fini del risarcimento. Professor Grosso. Sì, evidentemente noi avevamo chiesto la condanna di tutti gli imputati, in particolare del responsabile civile Bank of America. Evidentemente il tribunale ha ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per arrivare a tale soluzione, anziché ci fossero elementi per arrivare a tale sentenza di proscioglimento. Però bisogna precisare alcune cose. Innanzitutto, in questo primo filone di processo milanese per aggiottaggio era coinvolta soltanto Bank of America. Altre 5 banche sono interessate dal secondo processo, che è iniziato davanti alla seconda sezione del Tribunale di Milano, presieduto dal dottoressa Manfrin, e qui evidentemente è tutto da discutere. Ciascuna banca evidentemente ha le proprie specifiche eventuali responsabilità. Bank of America una cosa, le altre banche sono un'altra cosa. E poi ci sono i processi per... C'è il processo per bancarotta Parma, certo. Aperti a Parma, e tutte le banche, e di nuovo Bank of America lo sarà tra poco, sono coinvolte anche in quei processi. Dopodiché si vedrà, evidentemente. Professor Grosso, per fare un po' il punto della situazione anche, ci può ricordare che obiettivo stava perseguendo lei per i 32.000 obbligazionisti che sta seguendo dal punto di vista legale? Ecco, noi ci siamo ovviamente costituiti parte civile in tutti i processi. Però, dato che i processi sono penali, sono molto lunghi, soprattutto questi, totalmente complessi. Poi, con riferimento ai processi d'aggiottaggio milanesi, c'era incombente il rischio di una prescrizione, che è molto breve per l'aggiottaggio. Ebbene, noi a questo punto avevamo cercato di intavolare trattative con le banche o gli altri disponibili a accordi. E siamo già riusciti a sottoscrivere transazioni con quattro realtà, con Deloitte & Touche, con Deutsche Bank, con UBS e con Morgan Stanley. Quattro transazioni che complessivamente hanno permesso di acquisire una cifra di circa il 15-16% del capitale investito. Una cifra in assoluto non elevatissima, ma in concreto molto elevata, se si tiene conto che la percentuale è riferita alla somma investita, non al danno, perché il danno evidentemente è desumibile dalla somma investita detratto il valore delle azioni che gli obbligazionisti hanno avuto in concambio quando è stata costituita la nuova società Parmalat, famoso concordato, sì. E quindi esattamente, quindi praticamente bisogna sostanzialmente rapportati al danno moltiplicare per due la cifra ottenuta. Non è il 16%, non è il 15%, ma è circa il 30% del danno. E questo si riferisce evidentemente a transazioni con quattro soggetti. Noi speriamo che nei prossimi mesi si riesca a chiudere altre transazioni e quindi pezzo dopo pezzo aumentare il ristoro ottenuto. E quindi concretamente poi invece le speranze che riponete nel processo in corso a Parma quali sono? Beh, in Parma si discute di un fatto molto più corposo e soprattutto probatoriamente più solido, e cioè delle distorsioni, cioè delle bancarotte. Non si discute di false comunicazioni al mercato, dove c'erano tutta una serie di questioni di prova e giuridiche che evidentemente sono state ampiamente evidenziate dai difensori degli imputati e dai difensori di Bank of America. Là bisognerà vedere se si riuscirà a dimostrare che una serie di imputati hanno concorso con tanti con i suoi stretti collaboratori alle sottrazioni. Il problema, direi, sia giuridico che di prova è completamente diverso. Senta, professor Grosso, ieri con l'approvazione del decreto mille proroghe è slittato ancora di 6 mesi, quindi se ne parla a questo punto a partire dalla prossima estate, lo strumento della class action nel nostro paese. Qualora fosse entrato in vigore in gennaio, secondo lei sarebbe stato interessante anche per la vostra tutela nei confronti degli obbligazionisti Parmalat perseguire questa strada nel nostro paese? Ma guardi, il problema era, se ne discuteva, a valutare se la class action, così come era introdotta, potesse operare nei confronti di fatti illeciti, di danni cagionati anteriormente alla sua entrata in vigore o no. Il testo approvato originariamente dal Parlamento consentiva anche l'esperimento della class action nei confronti di illeciti realizzati precedentemente. Ho letto sui giornali che l'attuale governo stava pensando di mutare atteggiamento. Se avessero riservato la class action a fatti soltanto futuri, evidentemente non poteva, non aveva armi, ovviamente. Una pallottola spuntata, naturalmente. Sarebbe stata una pallottola spuntata per il passato. Certo. Comunque io ritengo che sarebbe opportuno introdurre la class action nel nostro paese, magari migliorando la legge che è stata approvata un anno fa, che presentava alcune difficoltà tecniche non indifferenti. Professor Grosso, un'ultima domanda, poi la lasciamo ai suoi impegni. L'abbiamo tra l'altro disturbata oggi in un appuntamento anche fuori dalla sua città d'origine. Il 24 dicembre, ci hanno informato in questi giorni tutte le associazioni dei consumatori, scadono i termini di prescrizione per l'azione di risarcimento dei danni contro gli istituti di credito che hanno venduto titoli Parmalat. Sì. È una, anche questa è una circostanza che interessa lei e i 32.000 obbligazionisti che segue? No, non interessa direttamente la mia posizione, perché io difendo i 32.000 obbligazionisti che sono clienti del San Paolo, cioè che hanno acquistato bond dal San Paolo di Torino e che si sono uniti in comitato per seguire tutte le eventuali azioni, in particolare per costituirsi parte civile nei diversi processi Parmalat. Il comitato, diciamo, è finanziare una realtà autonoma rispetto alla banca evidentemente, ma è finanziato dalla banca, è la banca che ha offerto questo servizio ai propri clienti. E però diciamo, il comitato nello statuto, proprio perché c'era questo rapporto di finanziamento, non è legittimato a agire contro il San Paolo. E quindi chiaramente il comitato in quanto tale non ha nessun interesse nei confronti di questa situazione, in quanto ovviamente fuori dalle sue possibilità. Ovviamente fatta salva la possibilità per ciascun aderente al comitato di adire le vie legali anche contro la Banca San Paolo, ma secondo i con legali scelti da lui stesso. Quindi questa insomma è una iniziativa, l'interruzione dei termini di prescrizione. Quella data è molto importante per tutti gli obbligazionisti, perché a quel punto, se non hanno fatto cause nei confronti delle banche che hanno venduto loro le fonde, evidentemente non possono più farle. Il problema è verificare con riferimento a ciascun obbligazionista e se effettivamente la banca ha violato o non ha violato qualche regola. E questo è il problema. Io so soltanto, però non seguo io la vicenda, che la nuova banca Intesa San Paolo, uscita dopo la fusione fra le due banche, ha intavolato, del tutto indipendentemente dalle azioni civili nei processi penali Parma, ha intavolato dei tavoli di conciliazione. E laddove riconosce che c'è stata una violazione contrattuale, io penso che l'impegno è pagare il dovuto ai clienti che, nei confronti dei quali c'è stata questa violazione. La partita mi pare che sia gestita dalla parte dei obbligazionisti, dalle diverse associazioni di consumatori che evidentemente faranno con molta attenzione e molta coscienza i loro interessi. Quindi diciamo, al di là dei risarcimenti da reato che noi stiamo cercando di ottenere con le azioni, speriamo ancora di ottenere con eventuali condanne a Parma nel secondo processo milanese, gli obbligazionisti del San Paolo hanno anche questa possibilità ulteriore di vedersi riconosciuto al tavolo di conciliazione delle responsabilità di tipo contrattuale. Poi diciamo sì, che comunque sono... che sommando tutte le somme che possono ottenere le diverse sedi non potranno mai ottenere più di quanto hanno, di più del danno subito evidentemente. Certo, quando la somma di quello che vanno azionato dovesse raggiungere, ma non raggiungerà purtroppo, il 100%, ovviamente non potranno più chiedere nulla a nessuno. Professor Grosso, le chiedo, proprio poi la lascio, un commento del tutto personale se lo ritiene. Noi questa mattina affrontiamo il tema della fiducia e dell'approccio con fiducia in questo momento al panorama degli investimenti. Questo tema legato al crack Parmalat e ad una sentenza che arriva, la prima peraltro, perché le altre chissà quando arriveranno, dopo 5 anni da quando si è consumata questa bancarotta, che suggerimenti, che riflessioni comportano secondo lei? Guardi, queste circostanze? 5 anni sono tantissimi, ma forse anche poco se rapportato al panorama italiano, per processi di questa difficoltà, sia tecnica che organizzativa. E quindi direi la magistratura milanese, ma per parte sua anche la magistratura di Parma, che ha difficoltà organizzative ancora superiori, mi sembra che hanno operato con molta efficienza. Quanto al contenuto della sentenza, bene, la prima volta che ci si è trovati di fronte all'opposizione di una banca coinvolta strettamente con per asserite operazioni svolte di concerto con Parma, la prima volta c'è stata una sentenza di assoluzione. Questo però secondo me non vuol dire niente, non ha una valenza generale. La situazione di Banco America era peculiare e relativa ai rapporti che Banco America aveva stipulato con la Parmalat. In quel contesto, ripeto, la Procura della Repubblica ha affrontato con estrema decisione il problema, sostenendo che c'era un fortissimo coinvolgimento di Banco America nella vicenda. Il Tribunale, seguendo i difensori che hanno sostenuto tesi del tutto antagoniste, con molta decisione, direi anche con molta bravura, evidentemente ha dato ragione, in questo caso ai difensori. Non credo comunque che sia un precedente per tutte le banche, perché ripeto, ciascuna banca ha avuto rapporti di tipo assolutamente particolare, bisogna valutare caso per caso. È una situazione talmente intricata, ce lo ricordiamo bene quando ne parlavamo qualche anno fa, e che adesso anche ricostruire è molto difficile. In ogni caso questo è il primo risultato di questa mattina sul fronte giudiziario, c'è questa prima condanna per Calisto Tanzi a 10 anni per il filone d'inchiesta che si è celebrato, appunto, che è stato seguito a Milano per aggiotaggio e ostacoli alle autorità di vigilanza. Professor Grosso, grazie molte per essere stato con noi, ci risentiremo presto, magari quando arriveranno i risultati da Parma. Non è una cosa che succederà nelle prossime settimane, però le auguriamo buon lavoro, a presto allora. Grazie mille, a presto. E noi andiamo allora subito a vivacizzare la nostra trasmissione, lasciamo Parmalat con tutti gli incartamenti anche che ho sotto gli occhi. Stelvio Bo, consulente finanziario indipendente, noi anche in altre circostanze al di fuori, diciamo, della trasmissione abbiamo fatto spesso e volentieri delle chiacchierate sul tema della fiducia in questo momento da parte dei risparmiatori, degli investitori in Italia. Abbiamo sentito, poi ne daremo qualche dettaglio in più, quanto hanno decretato ieri sia la Banca d'Italia che il rapporto BNL Centro Einaudi. Qual è la vostra percezione dal vostro osservatorio? Fiducia a pezzi, famiglie italiane che non si vogliono assolutamente approcciare in questo momento al mondo del risparmio, e se vuole naturalmente anche commentare la vicenda Parmalat da cui abbiamo cominciato questa mattina. Sì, buongiorno. Ma direi che adesso è un momento di grande incertezza e di stasi. Si tende a rimanere così come si è, si tende anche poco a chiedersi che cosa si vuole fare per l'anno a venire. C'è una specie di paralisi della volontà e degli atti. Credo che la paralisi sia conseguente al fatto che c'è anche una grossa disabitudine a ragionare in termini di tempi e di allocazione delle proprie risorse in relazione ai bisogni che si hanno. Una famiglia raramente pianifica con cognizione di causa e con un interlocutore adeguato i prossimi 3 anni di spese, i prossimi 3 anni di risparmi. Lo fa in maniera molto approssimativa, lo fa in maniera soprattutto poco pensata. Non lo fa neanche nei buoni momenti di mercato, boh? Ma secondo me no. Quando ci sono i soldi per pagare le spese, andare in vacanza e mettere qualche cosa da parte, poi si va normalmente da un interlocutore istituzionale, bancario e qualche volta dal promotore per avere un qualche buon consiglio, e si riceve un'indicazione su qualche cosa da acquistare. È molto ancora piccolo lo spazio nel quale uno prende il tempo di fare un passo indietro, guardare con un giudizio esperto quali sono i suoi bisogni e quali potrebbero essere le linee di condotta più intelligenti, e per fare delle scelte ponderate su cui si possa discutere fra un anno, fra 2 anni, e correggere il tiro. Perché non si fa? Semplicemente perché non si è abituati a farlo e perché non si ha un interlocutore che aiuta a fare questo in maniera semplice e organizzata. La crisi potrebbe essere un buon momento allora per fare questo check-up della propria situazione. Ne parliamo nella seconda parte di Salvadanaio, però abbiamo ancora 1 minuto e mezzo di tempo prima di sentire le anticipazioni del GR Extra Large, per introdurre anche il professor Claudio Bosio, vicepresidente di GFK Eurisco. Professor Bosio, prima ho sintetizzato forse in maniera anche un po' grossolana la carica che riveste anche in GFK Eurisco come direttore del Dipartimento Social and Politics, ma le chiedo, siccome anche con lei mi sono sentita prima della trasmissione e lei ha una visione invece un po' diversa rispetto al clima di fiducia che in questo momento imperversa, non direi tanto su scala internazionale quanto nel nostro paese. Lei esegue monitoraggi costanti fra i consumatori ma anche fra le aziende, e qua c'è voglia di ripartire. Sì, esatto, io direi di evitare le generalizzazioni ed evitare anche e soprattutto l'estremizzazione del tipo positivo o negativo. Forse il quadro che abbiamo di fronte è un pochino più complesso, con chiaroscuri che vanno letti attentamente per cogliere anche le opportunità che una situazione che è difficile, obiettivamente difficile, quale quella che abbiamo davanti, pur tuttavia ci riserva.

Sì, beh, è ovvio che un risparmiatore italiano che è stato sempre un po' boxato, scusate, nella condizione del polo da spennare sia molto avverso al rischio. Non potevo usare un termine più chiaro. Beh, certo. La mancanza di informazioni e obiettivamente una certa difficoltà è come un po' improvvisarsi medici, uno non può fare il medico di se stesso, quando gli fa male da qualche parte chiede a un esperto, a uno che ha passato anni a guardare come è fatto il corpo e come si cura una patologia. E bisognerebbe che trovasse un medico esattamente per l'argomento soldi, patrimonio. Oggi, con una ancora sparuta minoranza, in Italia comincia a esserci questo tipo di medico, è il consulente finanziario indipendente che, come il medico di famiglia, tratta gli argomenti che riguardano il patrimonio della famiglia e ha dei costi paragonabili, perché so che spesso questa figura... Infatti, lì volevo arrivare perché molti messaggi già stanno commentando proprio questo aspetto. Sì. Si ritiene una figura non accessibile dal punto di vista economico come consulente alla platea, diciamo, vasta dei risparmiatori. Preferisce andare in banca anche per quello, perché tutto sommato magari ti rifilano il prodotto che non fa per te, ma la consulenza è gratuita allo sportello. Sì, diciamo che c'è un'informativa gratuita, che ci sia consulenza ho qualche dubbio, nel senso che è sempre una vendita. Ecco, bisognerebbe capire che il bancario e anche il promotore è un venditore di prodotti. Non viene pagato per i consigli che dà, viene pagato se vende il prodotto. Potrebbe far capire benissimo a un interlocutore quali sono i suoi bisogni, non guadagna nulla se l'interlocutore non compra, e questa è la grande differenza. È vero che ad oggi il numero di consulenti è abbastanza basso, nell'associazione di cui anch'io faccio parte, che si chiama NAFOP, ci sono un 200-250 iscritti, e quindi è impensabile che possano sostituire le 32.000 filiali o i 20.000 promotori finanziari, però costituiscono già un punto di novità e sono accessibili anche su base spot. Ma anche perché ritengo, non so se lei è d'accordo, che il consulente finanziario non debba necessariamente sostituire il promotore finanziario, sono attività differenti, per cui il promotore può continuare tranquillamente a vendere il suo prodotto a patto che sia un prodotto adeguato alle esigenze dei risparmiatori. Il consulente può dire sì, hai fatto bene o non hai fatto bene, ritengo. Certo. Quindi non sono, figure in conflitto di interessi. No, sono figure che possono benissimo coesistere. L'importante è che quando uno va a rivolgersi all'uno o all'altra figura capisca la differenza. La differenza fondamentalmente è che uno vende prodotti, la banca e il promotore. Il consulente invece vende le sue conoscenze, e se dice compra questo prodotto non lo fa perché da questo ricava un utile. Da ciò cosa consegue? Che è molto più libero nel consigliare qualche cosa in cui effettivamente crede, e difficilmente consiglierà qualche cosa che non è adatto. Poi può sbagliare anche lui nelle sue previsioni sulla leggere il mercato, per la carità, non è la panacea di tutti i mali, però sicuramente c'è una posizione intellettuale e onesta. Ecco, io faccio sempre questo paragone per farmi capire. Se uno andasse dal medico e sapesse che il medico viene pagato in base ai farmaci che prescrive, sarebbe un po' sospetto quando il medico gli dà tanti farmaci o gli dà i farmaci tipo della stessa azienda, ecco, cioè... o gli dà i farmaci più costosi. E così è con le banche o con i promotori. Volevo anche precisare che ovviamente non è che questa è la trasmissione stamattina che vuole fare lo sponsor dei consulenti finanziari indipendenti, è un tema che ricorre periodicamente, ciclicamente anche nelle nostre trasmissioni. Queste figure si stanno attrezzando anche per gestire un po' questa situazione di crisi nel nostro paese, tra l'altro poi ci faremo raccontare proprio da Stelvio Bo come si sta attrezzando lui con la sua attività. Professor Bosio, non mi sono naturalmente dimenticata di lei, le vorrei chiedere un commento rispetto a quello che ha sentito fino ad ora. Cambieranno anche i termini del fare consulenza inevitabilmente prossimamente, anche alla luce appunto del clima che stiamo registrando in questo momento, o tutto sommato ancora il nostro paese non ce la farà fare questo, chiamiamolo, salto di qualità? Poi dipende, magari lei la pensa in maniera diversa. Professor Bosio. No, direi che il tema è assolutamente centrale, e per i dati che abbiamo noi dobbiamo assolutamente attrezzarci mentalmente, anche concretamente, ad incontrare un cittadino consumatore sempre più sfidante e sempre più pronto a negoziare, a chiedere e quindi ad alzare l'asticella delle difficoltà con cui andremo ad incontrarli. Quindi il tema della consulenza diventa assolutamente importante in generale e diventa ancora più importante per quel segmento di italiani che sono un circa 20% più evoluti, che sono implicati negli investimenti più complessi, intendo dire negli investimenti che toccano a qualche livello i temi dell'obbligazionariato corporate o dell'azionariato. In questo senso direi che c'è una sfida ben precisa, perché prepariamoci a fare i conti con un interlocutore sempre più, come dire, determinato e anche se un tantino più carogne, se mi è consentito questo termine non molto ferma, che rende bene anche l'aspetto, diciamo, negoziale all'interno del quale chiede di posizionarci. Insomma, il cittadino consumatore fiducioso, passivo, dipendente, che si accosta e si affida, forse è una metafora che è una realtà, un'immagine che se è stata vera in passato, non lo sarà certo in futuro. Vorrei aggiungere, se mi consente, un'altra dimensione, vista che è stata citata questa mattina. Prepariamoci anche ad affrontare non più i singoli cittadini consumatori, ma cittadini consumatori che sono sempre più intenzionati ad aggregarsi e a costituirsi come soggetti collettivi. Io credo che il tema della class action sia un tema da questo punto di vista assolutamente cruciale, perché nel momento in cui ci sarà questa possibilità, la disponibilità del cittadino consumatore a far valere i propri diritti anche sul piano collettivo diventerà senz'altro più corposa e più visibile. Aumenterà insomma la consapevolezza, però purtroppo ancora questa class action ci sfugge, ma in ogni caso speriamo che comunque quando viene alla luce verrà alla luce nella modalità che metta d'accordo un po' tutti, perché poi diciamo la forma che è in circolazione fino a questo momento, che in ogni caso è slittata di 6 mesi, ha trovato in disaccordo molte posizioni. Allora c'è Gianni dalla provincia di Lecco, pronto Gianni? A questo punto le chiedo ancora un istante di pazienza perché sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Se volete ancora intervenire sui temi della fiducia in questo momento, legata anche alla vostra propensione all'approccio al mercato in una fase che ci rendiamo conto è difficilissima, non bisogna spenderci ulteriormente parole su questo, potete appunto farlo all'800 24 00 24. Intanto, tra l'altro, il petrolio, mi comunicano i miei assistenti, è sceso sotto i $36 al barile, ai minimi dal giugno del 2004. Salva Danaio. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, una puntata che sta volando ancora questa mattina, il tema della fiducia in relazione ai rapporti diramati ieri dalla Banca d'Italia, dal Centro BNL e Einaudi, insomma famiglie in difficoltà, ma soprattutto in osservazione rispetto a quanto potrà accadere. Le famiglie che tutto sommato forse sono anche pronte a ripartire, a riportarsi un po' sul mercato, ma affidandosi ai suggerimenti di chi in una fase come questa. Gianni della provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. La ringrazio per l'opportunità. Grazie a lei, Gianni. Allora, io devo spezzare una lancia a favore dei promotori finanziari. Sì. Allora, io ho diversi conti, fra i quali uno con un promotore finanziario che, a mia insaputa, al mese di giugno ha messo uno stop loss con i titoli dal valore del 30 di giugno di quest'anno. Quindi le ha impedito il suo patrimonio di scendere ulteriormente? Sì, ha impedito che il mio patrimonio scendesse, quindi mi ha salvato non poco, un bel 80.000 euro. Ecco, no, quello che mi stupisce però è che l'abbia fatto a sua insaputa. Mi è saputa, ma perché diciamo che aveva la facoltà di intervenire attivamente, perfetto, benissimo. Via. Facendo l'interesse del proprietario dei soldi. Via. Certo. Mentre sono continuamente arrabbiato con... non so se posso citare il nome della banca, guarda, che da 800.000 euro dal valore iniziale del mese di gennaio mi trovo con 300.000 euro perché non mi volevano far vendere. Ma no, più in basso di così, dove vuoi che vada, a luglio. ad agosto, ma no, ma più in basso di così dove vuoi che vado, ormai deve rimbalzare. Mi trovo adesso a distanza di 8 mesi a perdere 500.000 euro. Ho fatto arrivare una lettera raccomandata dal mio promotore Fineco il 4 di dicembre e tuttora non hanno spostato i titoli perché ci sono dei problemi. Invece ho saputo che gli servono per far vedere i bilanci di fine anno. Gianni, sì, io la ringrazio per la sua testimonianza. Volevo sentire Stelvio Bo, che fa il consulente indipendente, arrivasse un cliente di questo tipo da lei e le ponesse questa sua situazione, no? Il suo rapporto con la banca, benissimo, con il promotore che ha attivamente gestito il suo cliente, certo. Con la banca le cose sono andate in maniera molto diversa. Adesso, al di là, diciamo, dei suggerimenti di primo acchito che interrompi tutto il rapporto con la banca, però di fatto lui ha una perdita enorme, sì. E effettivamente ha ragione adesso la banca a dire che cosa esci a fare. Però? Ma il primo tema è quali sono le aspettative che lui ha adesso? Io credo che sia quello di recuperare quello che ha perso, certo, e questo è molto evidente. Certo, ma bisogna darsi anche lì dei tempi e dei modi. Uno degli errori peggiori che si possono fare è di ragionare su un portafoglio così come è oggi sulla base di quanto era 10 mesi fa. Di fatto, per fare un lavoro fatto bene, bisogna mettere da parte quello che è avvenuto e ripartire su quello che vogliamo da quei soldi, meno di quanto vorrei, diciamo per pochi che si siano ridotti a essere, però dobbiamo guardare solo avanti. Poi, chiaro che se una banca ha così mal consigliato, forse non è il posto dove rimanere e bisogna trovare un altro punto di riferimento. Però il tema vero è qual è il profilo di rischio del signor Gianni, che cosa si aspetta dal rendimento del suo patrimonio. Da qui si costruisce un percorso sul quale si può sbagliare, ma dove si può sbagliare magari del 10, 15, 20%, non del più del 200%, perché come siamo scesi fatto una calcolo a meno rapidissimo della metà, no? E certo. Ecco, questa è l'impostazione che secondo me salverebbe molto, perché il signor Gianni, se avesse fatto questo ragionamento a gennaio, avrebbe messo in preventivo la possibilità di scendere molto. Può darsi pure che l'abbia fatto, adesso non abbiamo neanche raccontato nel dettaglio il suo caso. Di fatto però, insomma, obiettivi chiari in modo tale che possiamo forse rivalerci in maniera un po' più decisa verso anche la nostra banca o comunque verso il nostro consulente finanziario. Volevo sentire anche Paolo da Milano, che è l'ultimo arrivato in realtà in lizza, però Paolo ha sentito comunque una lancia verso i promotori finanziari, l'abbiamo lanciata questa mattina positivamente. Paolo? Sì, buongiorno. Buongiorno, ci buongiorno dica. A tutti. Niente, no, io ero in macchina, stavo sentendo la trasmissione e volevo solamente dire, sì, ho sentito il collega indipendente che faceva determinate affermazioni sulle quali concordo pienamente sulle metodologie e tutto. Non sono d'accordo sul concetto che il promotore finanziario vende solamente il prodotto. Io è dal 1980 che lavoro nel settore, ho lavorato in banca come direttore di banca, adesso lavoro come promotore finanziario da 15 anni e la prima cosa che faccio solitamente con i clienti non è solamente quella di capire le esigenze, i loro problemi cercare di capire per quale motivo vogliono investire i soldi, che obiettivi hanno, che esigenze familiari hanno, quindi fare una verifica di tutto quanto del cliente e tutte le esigenze che ha, le necessità che ha, ma è anche quella di educare il cliente, far capire che ci riesce Paolo? Fa. Ci racconti, ci riesce? Certo, lo faccio sempre con i miei clienti, perché il cliente per me è fondamentale, cioè il cliente mi fa vivere, ok? Io non posso permettermi di vendere un prodotto a un cliente se non ho capito le sue esigenze. È come andare dal medico, le do una medicina senza aver capito che patologia ha. E anche questo parallelo lo abbiamo fatto all'inizio. Paolo, però lei mi deve dire con onestà intellettuale, mi sta dicendo che comunque anche fra i suoi colleghi non c'è nessuno il cui obiettivo è comunque vendere, ma basta il prodotto della casa. Ecco. Assolutamente. Poi sono nate anche società, le multibrand. Tutti i settori, io ho lavorato, ripeto, ho lavorato al 1180, ho lavorato in banca 14 anni, sto lavorando da 14 anni in controllore finanziario. Esistono in tutti i settori persone consapevoli, coscienti, capaci, ma soprattutto professionali, ed esistono persone che fanno il mestiere solo per guadagnare e non si preoccupano assolutamente. Però ecco, non mi piace il concetto di generalizzare. Come in ogni settore, come in ogni campo, esistono persone professionali che amano il proprio lavoro, si impegnano e cercano di farlo nel modo migliore possibile. Poi si sbaglia anche, perché ci mancherebbe altro, non abbiamo la sfera di cristallo, ma quando si commettono gli errori bisogna avere la capacità, la forza del cliente a mettere l'errore e trovare il modo per far sì che questo errore diventi un'opportunità per il cliente. Paolo, la ringrazio, ci rimangono 2 minuti, vorrei sentire telegraficamente Sergio da Bergamo per poi concludere in questa puntata che è letteralmente volata. Sergio, rapidissimo, grazie. Sì, si fa una domanda ben precisa lei, sì. Sì, allora le faccio una domanda e complimenti alla trasmissione, anche se non sempre vi condivido, questo è importante dirlo, come qualche volta anche stamattina, però al chi ha parlato prima dei vostri esperti sul discorso della consulenza, sì, volevo solo dire questo, volevo chiedere soprattutto questo, ma lei è sicuro che invece che andare, intanto condivido gli ultimi 2 interventi, quindi... Sì. Ma che fa il promotore lei? Lei è sicuro che andare solo da un consulente indipendente, questo signore inizio anno, sì, a gennaio è andato lì, non mi avesse fatto perdere almeno il 30% con infatti, le sue, anche perché dice lei giustamente, non mi avrebbe fatto perdere comunque, allora diciamolo comunque questo, cioè forse il promotore ha interesse a vendere i prodotti, può anche darsi, questo non lo escludo come ha detto prima, però non generalizziamo. E poi però la domanda proprio è, ma siamo sicuri che i consulenti finanziari avrebbero salvato i nostri patrimoni? Io di questo ho qualche dubbio. Sergio, sì. Legittimo assolutamente, ma chiaramente non è che i consulenti finanziari sono dei padri eterni, non hanno conflitti di interesse, quindi possono ammettere con maggior tranquillità che un prodotto non è adatto. Dovrebbero anche concordare con il cliente dei livelli accettabili di perdita, per cui quindi non è che se il nostro ascoltatore, se Gianni di prima fosse venuto da lei, gli 800.000 euro magari non sarebbero diventati 300.000, ma forse 400.000 ci sarebbero diventati lo stesso, perché lei comunque la capacità di limitare i danni della borsa in questo momento non ce l'ha, come non ce l'ha nessuno. No, ma ho la capacità di dire esca, perché abbiamo concordato che nel suo profilo di rischio questo è compatibile. Volevo dire una cosa sul costo, che credo sia anche intellettualmente una delle barriere all'ingresso più alte nei confronti della consulenza indipendente. I costi non sono alti, per interventi spot sono analoghi a quelli di un medico, diciamo 250 euro, tanto per dire, per un tagliando risparmi, e viceversa per una consulenza che duri tutto l'anno con maggiore assistenza si va dall'1 all'1,5%. E insomma abbiamo toccato davvero tanti aspetti di questa crisi anche questa mattina, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Stelvio Bo e Claudio Bosio che abbiamo un po' abbandonato nell'ultima parte della trasmissione, ovviamente gli prometto che lo inviterò però un'altra volta per tornare a farci raccontare i monitoraggi anche di GfK Eurisco sul sentiment tra i consumatori, i risparmiatori e le imprese. Salva Danaio anche oggi termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata. Salva Danaio.